Sino X, Mad Boys, eredi al suono. E sono cazzi vostri. Zio, non mi vedi come colpi di Jet Li. Simo X, getta lì per il mete KO e figli MC. Se il track al beat pompa la massima potenza, il mio stile aumenta sempre come il prezzo della benza. Nelle casse violenza, mercenari ribelli, faccio sempre centro come Christmas coi coltelli. Nel mio segno gemelli, zero doppia faccia ascolta. Non ho due facce ma c'ho il doppio della tua forza. È una bomba nella porta, questo suono e lo sappiamo. Con un mic in mano, imperatore come Adriano. Quindi facci piano, noi spingiamo con gli eredi al suono. Suona e vedi, buone sedi, sono in piedi, te le suono. Mercenari, con le rime, con i sogni. Mercenari, con le rime senza soldi. Mercenari, con le rime, con i sogni. Mercenari, con le rime senza soldi. Rimo, the extra potent come Magno. Non spacco quando rappo, sono Magno come Carlo. Un stile così grosso, non riesci manco a pensarlo. Le rime così grasse, non riesci manco a pesarle. No, scacco matto, spacco quarto, mi guardi, mi scassi. Stacco il palco, te ci attacco, non fare il pazzo. Mi chiamare live, al massimo al palco. Amo la mia città, ma vorrei che fosse Zion. Amo il mio paese, ma vorrei non fosse Zion. I lavori in corso sono per via le mani dal mio hip hop. E sei bravo, sì, è come il parrucchiere di un calvo. Il peggio in circolazione, come casting mercenari di Stallone. Molla tutto e veste a lutto, minchione. Buchiamo giù la porta ancora prima che ci apri. La luna ci gira storta fin da quando siamo nati. Siamo al top come Gun, e se non è le Gun, scuri come la Falchi negli sketch di Ale Franz. Tu parli di me, chi cazzo t'ha mai sentito? Faresti pezzi, man, mi sa che sei impedito. Ho visto il tuo talento, nascosto a chi l'ha visto. Cercava l'unico babbo che aveva preso il tuo disco. Ricky, cerca il mio nome sopra l'Atlante. Il flow si fa gigante quando pompo ultra pesante. Mercenari sulla traccia, merce rara sulla scena. Portiamo sempre fotta piena, più che nel film Avvilena. Mercenari, con le rime, con i sogni. Mercenari, con le rime senza soldi. Mercenari, con le rime, con i sogni. Mercenari, con le rime senza soldi. Noi mercenari come la squadra dei Falchi. Non ci fuoti come Griffith, codardo manco attacchi. Mostriamo le vittorie in alto in stendardi, entrando nella scena, violentando i quattro quarti. Doppio dei sei versi, peggio che negli stadi. Scaldo questa strofa e vanno pure a troie gradi. Prendiamo i denari, fanculo, regina Alfante. Re di veda povero, lo fottiamo alla grande. Wizarmi pari con gli altri re di al suono. Uniti a Simo X, ti scassano in coro. Viaggio sulle note nella base d'Endurzeit. Vuoi fottere con me, zio, ready to fight. Violenza stereofonica, la strofa mia è una bomba. Diretta nelle orecchie di voi altri senza fota. Paga ad ogni gesto, paga il giusto prezzo. Per la strofa più pulita che si incastra a destro. È una scienza esatta, frate contro il quarto. Dopo chiudi bene quanto cazzo ti han pagato. Mercenario no, io sono il dittatore. Determino la legge su chi vive o su chi muore. Decido io, l'amministrazione, su chi può cantare in questa cazzo di prigione. Mercenario no, io sono il dittatore. E romperò il culo a chi vorrà attaccare. Mercenario, con le rime, con i sogni. Mercenario, con le rime senza soldi. Mercenario, con le rime, con i sogni. Mercenario, con le rime senza soldi.